Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, 8 e 19 minuti. Ci siamo e maggio se n'è andato. Maggio se n'è andato, la Madonna non ci ha degnato, come si suol dire, era il suo mese, ma cosa, per l'Italia... Cosa attendevi? Lo so, per l'Italia è una buona parola, invece qua vanno come un treno a celebrare cose irresponsabili comunque. E dire che oggi è pure la visitazione della Vergine Elisabetta. Che chi era Elisabetta? La sua cugina, un po' più anziana. Lei aveva appena ricevuto... La regina. Non la regina Elisabetta. Dai, adesso non confondiamo il sacro e il profano. Chissà, può essere pure che... No, adesso non esageriamo. Scherzo, sai che oggi ci sono queste nuove rivelazioni sulle DD. Sì, sulla macchina. Sì, sulla macchina di le DD. Detto tutto questo, comunque, oggi santi divertenti, Canzio, Canziano e Canzianella, per esempio, dei martiri sotto Diocleziano, che caddero a San Canzian dell'Isonzo, che in realtà è uno dei guadi dell'Isonzo, che si chiama così, e sono attestati davvero, perché guarda che nella chiesa paleocristiana di lì i loro resti sono attestati fin dal IV secolo. San Petronilla, idem, è una delle sante più anticamente ricordate a Roma. Poco se ne sa, stiamo parlando di una martire del primo secolo, però nella catacomba di Domitilla fin dall'inizio attestata la presenza dei suoi resti. Va bene, tra le cose avvenute oggi nel mondo, tanto per capire come l'Italia è recidiva, ne ho scelte solo due, appunto per sorridere, diciamo così, rispetto a quello che capita adesso con la corsa al voto, col proporzionale. Nel 1976, allora, grandissimo a mio giudizio, il più grande che ci sia stato nella storia della Banca d'Italia, governatore della Banca d'Italia, lo dico perché oggi ci sono le considerazioni annuali della Banca d'Italia, all'epoca era Paolo Baffi, fece un grande appello contro l'eccesso di spesa pubblica fuori controllo. Era il 76, figuratevi l'Italia quanto è recidiva su questo fronte. E invece nel 2007, anche qua, recidività. L'Italia bloccata dai taxi contro la liberalizzazione. Sono passati 7 anni, vedete, 30 anni, 7 anni, 40 anni, ma l'Italia è sempre la stessa. E tra tutti i compleanni di oggi ne ricordo solo uno, perché a mio giudizio è uno dei più grandi tra i grandi, spesso considerato all'inizio della parabola anche lui un attorucolo a quattro soldi, aveva due sole espressioni, col sigaro e senza, e invece nato nel 1930, ma Clint Eastwood è un grandissimo vero del cinema, come Clint, regista, interprete, come, cioè un uomo che tutti hanno imparato poi a rispettare. Mentre all'inizio gli avevano... All'inizio, dai, quando faceva il caso Scorpio è tuo... Gli avevano affibbiato, insomma, la cosa di una specie di americano del sparatore, dai valori di destra estrema e così via. Invece vabbè, poi si è capito. Molto riscattato, diciamo, quando è passato dall'altra parte della cinepresa. Quando si è passato dall'altra parte della cinepresa, però che cosa ha fatto? Ha rivelato di avere capito anche come uomo, e non solo come uomo di cinema, quello che aveva imparato evidentemente in tutta la prima parte della sua carriera. Ma solo, sai come, i cliché sono cose terribili per giudicare gli uomini e le donne e così via, e quindi bisogna imparare a diffidarne. Io voglio dirvi che finalmente un po' di sport vero da domani, perché domani c'è la finale dello sport più bello del mondo, iniziano le finali NBA e c'è questo scontro tra due giganti totali, il mio preferito è il piccolo diavolo, Stephen Curry ovviamente, ma stiamo parlando ovviamente finale NBA, cioè del Golden State Warriors contro i Cleveland Cavaliers, e dall'altra parte però LeBron James, che è una specie di alieno, ecco, alieno vero del basket. Però seguirai più questo delle sfide politiche italiane. Questo non c'è dubbio. Ho sentito ieri l'intera direzione del PD ed ero traumatizzato. No, vabbè, però tu ero traumatizzato. Se tu ti vuoi anche fare del male. Ma per mestiere bisogna farlo, ero traumatizzato. Ma non è vero che per mestiere. Io contesto questa cosa. Per so, però per il mestiere che faccio io, lo seguire un po' meglio l'economia, l'impatto della politica, volevo capire. E mi sono traumatizzato perché ho sentito in diretta una lacrimata sepoltura del maggioritario, della vocazione maggioritaria, del maggioritario come legge elettorale. Mi aspettavo qualche parolina in più, qualche lacrimuccia in più, invece è una cosa rapida, brutale, come nello stile di questa leadership del partito, al dire, perché così ha tacitato qualunque obiezione interna, dicendo forse non avete capito, inutile che mi fate lezioni di politologia, ha detto testualmente. Gli italiani, dicendo no il 4 dicembre, hanno detto no alla democrazia decidente, cioè hanno scelto il proporzionale e l'hanno scelto loro. Questa che è una truffa dal punto di vista ideologico. Vedi perché non dovevi seguirlo? È il radicamento della scelta proporzionale. Dopodiché non una parola, ti assicuro, su cosa succede esponendosi sui mercati, gli spread, le preoccupazioni dell'Europa, l'IVA che scatta automaticamente, non una parola. L'unico che ne ha accennato, lo dico insomma, Cesare Damiano della sinistra del partito, che a un certo punto è tenuto dicendo ma non vi preoccupate di niente di tutto questo, chi interveniva dicendo deputati e senatori, ma i gruppi non abbiamo fatto nemmeno una riunione per parlare di legge elettorale. Beh, c'è la direzione, vedi, apposta. La questione è proprio questa. Non è necessario seguire tutta la direzione del PD. Hai ragione tu. Sono poi cliché, insomma, che vengono poi ripetuti dai giornali in maniera esondante, però, paginate. Gli italiani avrebbero scelto di spogliarsi del diritto di indicare coalizione di governo. Ci vuole una faccia tosta. Io ho fatto banalmente la domanda se sia più impattante capire che all'Ilva, per esempio, c'è una nuova cordata che vuole rilanciare la produzione con però a fronte di 5-6 mila esuberi. Allora, a Taranto, ma non solo a Taranto, è più impattante un discorso del genere? Oppure capire se voteremo col modello tedesco, simil tedesco, mezzo italiano, con lo sbarramento al 5%? No, giusto per essere concreti, perché poi sì, a chi mi dà del qualunquista dico che sono loro i qualunquisti, che parlano di cose che non interessano alla popolazione, non impattano sulla vita della popolazione. No, non impattano nell'interesse, insomma, impatteranno nel lungo periodo. Diciamo che la disinvoltura di questa scelta comunque oramai è celebrata, è sotto gli occhi di tutti, inutile perdere tempo. Oramai viviamo in un sistema politico in cui la mancanza di voglia di ingaggiare il leader del PD ne fa il gigante che ha in mano l'agenda del paese. Poi succederà quel che succederà. Ma che poi succederà? Sei sicuro che si va a votare? Cioè, nel senso, siamo in questo piano inclinato per cui ormai sono ragionevolmente sicuro. Mi auguro solo che il capo dello Stato riesca in qualche modo a frenare, però che ci sia l'accordo tra Renzi e gli altri due, c'è l'accordo, c'è, è evidente che c'è l'accordo, c'è, però sai, c'era il patto del Nazareno un tempo, ma diciamo questo accordo per tutti e tre ha un interesse oggettivo. Adesso non vorrei dire minimizzare i problemi, le obiezioni interne, i possibili concorrenti esterni, insomma è un patto che c'è tra interessi, ecco. Vediamo, vogliamo chiederlo anche tanto agli ascoltatori, se vogliono chiamarci 800 24 00 24, poi parleremo anche di altre tematiche. Vogliamo chiederlo anche a un esponente invece del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli, che torna con noi, fa parte della Commissione Affari Costituzionali. Buongiorno Toninelli, ben ritrovato. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, questo patto, gli italiani si chiedono che tipo di patto, al di là di lei dice noi non facciamo patti eccetera, ma il patto tra le varie forze politiche è tale per cui si andrà a votare secondo lei? A settembre, adesso poi la data la vedremo. Ma guarda, il nostro obiettivo in questo momento è accantonare il rischio, che era molto ed è molto alto, che venga approvata un'altra legge elettorale incostituzionale, capisci con che effetti devastanti potrebbe produrre. Quindi noi abbiamo visto che c'era questo, non lo so, chiacchiericcio, tutto informale, tutto non pubblico sul modello tedesco, l'abbiamo studiato, l'abbiamo fatto votare a tutti i nostri iscritti, siamo stata la prima forza politica che pubblicamente l'abbiamo scritto nero su bianco, l'abbiamo approvato e l'abbiamo portato al PD ieri. Detto questo, ci hanno risposto, ieri il PD ci ha risposto, ne siamo felici che abbia accantonato un'altra proposta certamente incostituzionale come Rosatellum o il Verdinellum, però io dico anche una cosa, siccome ovviamente tu hai fatto benissimo a dire patti, accordi, io ce ne guardi da patti e accordi. Qua c'è da fare una legge buona per il paese che garantisca una classe dirigente politica seria attraverso un modello di regole giuste e costituzionali. Io però le carte non le ho ancora lette, perché no, io ricordo una semplicissima cosa, gli italiani oltre che io che sono in commissione a rappresentarli. Io ricordo una cosa che mi fa ridere: quando è arrivato il cosiddetto Rosatellum, che era un abominio con coalizioni variabili, multiple, là ci si alleava con Verdini, qua ci si alleava con Alfano, qui con Pisapia, l'hanno chiamato i renziani, il tedesco. Quindi va bene tutto. Noi abbiamo detto, abbiamo messo dei paletti che abbiamo fatto votare i nostri iscritti, appena vediamo carta canta, ok, vediamo e mettiamo il nostro pulsante. Quindi insomma, questa è una cosa importante, cioè, stiamo parlando di una legge elettorale che sulla carta tutti vogliono, ma che in concreto nessuno ha visto ancora, cioè nessuno ha visto le carte degli altri, ecco, giusto per... Ma guarda, il modello tedesco è una roba semplice. La signora Maria, quando va a votare al seggio sotto casa, mette una bella X sul simbolo, contemporaneamente vicino c'è il nome di una persona, se il simbolo vince, quella persona entra nel collegio uninominale, ma il numero di seggi che spettano al partito dipende dai voti al partito, non al potente locale, al cacicco locale. Quindi io spero che rimangano in questo perimetro qua, c'è il 5% di sbarramento che è intoccabile. Noi facciamo una cosa, abbiamo fatto però sinceramente, ti dico una cosa, la Merkel ultime elezioni piglia il 41% e grazie al modello tedesco con lo sbarramento i seggi che le spettano sono 49, a noi non basta, abbiamo chiesto di inserire un correttivo che fa sì che questi 41% di voti diventino magari 52-53% dei seggi. E noi su questo battaglieremo, perché è un metodo di calcolo, è strato di matematica, non si tratta di niente di strano, di particolare, è una roba tutta costituzionale. Nel metodo di distribuire il calcolo della trasformazione dei voti in seggi, premi di più i partiti grandi, soprattutto il primo partito che vince, e togli un po' di seggi a quelli piccoli, ma non è che li cancelli. Per dare una governabilità, perché questo poi, Oscar, il problema è questo, se l'abbiamo detto varie volte, perché prima si diceva... Quante volte hai sentito dai politici? Bisogna sapere quando si vota la sera chi governa. Questo è proprio il sistema. Lo diceva Renzi, che adesso è diventato la Edo. Questo è il sistema proprio opposto, cioè è il sistema che non ci farà sapere. Poco, osservazioni per chi ci ascolta. Chi fidate di chi parla di modello tedesco? Il modello tedesco è fatto di due voti che possono essere divergenti. Sulla scheda troverete un solo voto. Il voto del proporzionale prevarrà sul voto del candidato di collegio, perché la maggioranza dei partiti preferiscono scegliere a prescindere dal rischio che si corre con un candidato storto nel collegio. Terzo, il sistema tedesco si incardina su una forma di governo a sfiducia costruttiva del Premier. Qui non lo avremo. Quarto, è falso che col referendum del 4 dicembre abbiate scelto la legge elettorale. Quinto, nella riforma costituzionale non si parlava di forma di governo, Renzi ricordatelo. Sesto, con questa legge proporzionale non si cambia la forma di governo. 10 comandamenti. Ma no, ma per dire che bisogna essere in pillole, ma per dire quante ieri ne ho sentite che non stavano né in cielo né in terra. Comunque, che gli italiani ci avete vissuto per decenni con una legge elettorale che faceva fare e disfare i partiti, ci risiamo, questo è il punto, ci risiamo, non mi meraviglio. Posso permettermi? Sì. Quello che dici Giannino è assoluta, l'ho ascoltato io, anch'io il segretario del PD ha detto di quelle castronerie che tu hai appena smentito categoricamente. Tu parli anche di che cosa? Del rischio che poi ci siano partiti che si sciolgono, che si riformano e quindi c'è l'ingovernabilità. Sai com'è? Hai visto quante centinaia di transumanze ci sono state in questa legislatura? Guarda, lo dicevo anche ieri in un'altra trasmissione. Io faccio parte della giunta per il regolamento, ho studiato parecchio questi meccanismi qua. Il regolamento alla Camera non si cambia in 20 persone, nel senso che sono quelli all'interno. È la giusta cura, anche secondo me sarebbe. È la giusta cura, ma queste maggioranze, Giannino, non l'hanno mai voluto fare, perché ci sono i soldi di mezzo. Tu sai che se entra un partito verde votato dai cittadini e gli spettano 100 seggi, dopo due anni questo partito verde si è diviso in partito verde, un 20 sono creato partito giallo e altri 10 hanno creato partito rosso. Questi nuovi partiti, che non ha mai votato nessuno, dalla Camera prendono una fiumana di soldi. Basterebbe fare una cosa semplicissima, due righe nel regolamento parlamentare che dicono: tu sei stato eletto con quel determinato partito, se io cambi, non, se siccome cambi, non c'è il vincolo di mandato, cambi, ma non hai più diritto. Soldini che ti seguono. Sono d'accordo. Ecco, a proposito di soldi, però, Toninelli, vogliamo chiarire questa cosa che ancora ieri, sulla quale mi sembra di capire Grillo ha insistito a dire: votiamo il 10 settembre così non scattano i vitalizi. Ma questa è una cosa non vera. Cioè, perché, allora, perché i vitalizi scattano credo il 24 settembre, no? Allora, i vitalizi scattano il 15 settembre, il 15. È vero che se si vota il 10 ci vuole il tempo per insediare, esatto, ci vuole un mese dopo il voto. Non è che scatta la fine della legislatura dal 10. Voi attenti lettori avrete letto anche che non parlavamo solo dei vitalizi che scattano, o meglio, delle pensioni privilegiate che scattano per i parlamentari in corso, per i parlamentari futuri. Sì. Ma noi parlavamo della legge Richetti, forse non l'abbiamo scritto benissimo quel post, e ci avete ragione, ma se tu lo leggi bene, abbiamo scritto che noi vogliamo cancellare i vitalizi, e quel passaggio riguarda la legge Richetti. Che legge significa Richetti. Questo? È in discussione. Ieri abbiamo votato il mandato al relatore in commissione. Richetti sta portando in aula la sua legge buona, per l'abolizione dei vitalizi, che non voleva portare, e noi l'abbiamo, tra virgolette, dato un bello spintone, perché abbiamo utilizzato la nostra quota di proposte di legge da portare in aula, che sono pochi perché non abbiamo la maggioranza, abbiamo fatto appiccicare la sua bella proposta, abbiamo tirato via la nostra e così l'abbiamo obbligato ad andare avanti in Parlamento. Noi vogliamo votare assolutamente prima, cioè per luglio, la proposta sui vitalizi. Che cosa faremo? Sì. Io spero domani di poterla votare, il PD secondo me sta già un po' tremarella, la voteremo la prossima settimana, quella dopo. Siamo a metà giugno, iniziano a girare perché si inizia a allungare, però dopodiché se basta. Dopo andiamo da Grasso e diciamo: Presidente Grasso, ma con molta tranquillità, qua la legislatura ormai volge al termine, la legge elettorale si sta approvando, qua ci sono due cose da fare, la prima è quella che è più importante, soprattutto per il sistema di fiducia che i cittadini devono avere nelle istituzioni, ci devi calendarizzare i vitalizi, l'abbiamo votata con un'ampia maggioranza alla Camera, dobbiamo votare con ampia maggioranza al Senato, e io mi piantono di fronte all'ufficio di Grasso col materasso e non me ne vado finché non calendarizza, come me e tutti gli altri del Movimento 5 Stelle, finché non calendarizza il Senato questa roba qua. Col materasso non è male. Cosa sarebbe quello quando si va in campeggio? Grasso col materasso. Grasso, il materasso, tutti col materasso da Grasso. Cioè abbiamo però anche dateci noi. Una mano anche voi. Questo, ma no, vabbè, adesso no, no, se passa la Richetti è la cosa più giusta del mondo. Però ci riguarda sugli ex vitalizi. No, noi abbiamo anche il andando. Vogliono approvarla alla Camera, far arrivare sulle prime pagine dei giornali aboliti i vitalizi, così passa il messaggio. Poi al Senato chi si è visto, non stiamo scherzando, noi andiamo veramente a evitate protestare. Che passi l'aumento nel frattempo con l'altra mano del 20% della reversibilità, che non ha senso. Hai ragione, ed è un altro discorso che cercheremo di cancellare, ma ricordati che lì dentro stiamo toccando i vitalizi degli ex parlamentari che sono la città. Gli insulti dell'onorevole Gaspari che ribecco da anni mi sono molto chiari, non ti preoccupare. In ogni caso vedremo come procede. Noi ringraziamo Danilo Toninelli per essere stato con noi, grazie ovviamente, membro della Commissione Affari Costituzionali del Movimento 5 Stelle, e vediamo un po' che succede su questa legge elettorale, ma anche sulla questione dei vitalizi. Richetti noi l'abbiamo invitato, se vuole siamo qua disponibili a parlare di questa sua proposta, di questo del tema, Partito Democratico, appoggiata anche al Movimento 5 Stelle, per rivedere col metodo contributivo i vecchi vitalizi. Certo, c'è questa cosa per cui mentre li si rivede con una mano c'è l'aumento del 20% colpo di coda, degli eredi. Questo non deve mettere in dubbio che se si riesce ad approvare quella norma è molto più importante. Diciamo, si ottiene 100 da una parte, si perde magari 10 dall'altra. Capito, ma però va saldo bene, positivo è 90. Saldo c'è. Diamo un attimo in pubblicità, vai, poi rientriamo con tanti ascoltatori, Oscar. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qua, sono le 8:41 minuti, ci sono gli ascoltatori, inizierei da Cremona, Marco. Pronto, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Ascolti, no, io volevo contestare quello che dice in particolare Giannino sulla legge elettorale. Cioè, era evidente che col referendum avete votato no, e ci sarebbe stata la palude, credo che Renzi l'avesse anche detto, e questo se per lei quello che dice Renzi è la verità, tutto, problema suo, appunto. Non sto dicendo che è la verità quello che dice Renzi, non sto dicendo questo, sto dicendo che lei sta falsificando le cose. No, guardi, non ci provi neanche. Non ci provi neanche. Il referendum non era sulla legge elettorale, non ci provi neanche. Mi dica i nomi. Non ci provi neanche. Mi dica i nomi di chi mi vuole. Mi dica la i nomi, lo dice il PM, mi ma non dica, a me. Mi dica i nomi di chi vuole la legge proporzionale. Provi dica. A dire Grillo. No, provo, io sono tutte e tre, Grillo, Berlusconi e Renzi. Grillo, Berlusconi e Renzi. L'accordo è a tre, Grillo, Berlusconi e Renzi. Ciascuno ha un interesse e mi dispiace, il tentativo vostro di dire che sono stati gli italiani a dire il proporzionale è costruito su una base che non ha fondamento, non si è votato su quello il 4 dicembre. Prioritario. Non c'è via, non c'è via. E il no al referendum l'ha seppellita definitivamente. Vabbè. Vabbè, però lei ha fatto la sua bella campagna. No, guardi, mi dispiace, anche questa è una mendaccia che si rimette in tasca mentre io sorrido. Sì, dopodiché sì. La agitprop è una scelta di vita legittima, bene, caro ascoltatore. Insomma, il giornalista con la schiena dritta quando c'è sì. Toninelli, gli faccia qualche domanda. Ah, vede che lei fa la agitprop proprio. Vabbè. Vabbè, insomma, comunque Marco, non si votava per la legge elettorale al referendum, ecco, non c'è tanto. No, non era collegata, ma era evidente che oltretutto in Italia una legge come quella francese sarebbe immediatamente bozzata, dico bene. Sì, guardi, adesso non entriamo nei sistemi elettorali, cioè, ma cioè la francese, la tedesca, facciamo una italiana, cioè, non siamo in grado, meglio, di farne una italiana che, sono. Che sia. Non sì, siamo. Ci, non siamo, nel senso, certo, non sono in Parlamento, ma insomma, non siamo in grado di farla, nel senso che non, noi politici italiani, sistema politico italiano, una legge che premi chi è più forte, senza inciuci, senza cose strane. Comunque Marco da Cremona, grazie. Andrea da Milano. Francesco, buongiorno Francesco. Buongiorno. Niente, io volevo dire la mia sul perenne blatericcio che mi sembra essere la politica italiana, nel senso che io seguo per piacere anche le elezioni che sono, cioè la campagna elettorale tedesca, ho seguito quella francese, ho seguito quella americana. Mi sembra che negli altri paesi, rispetto a che in Italia si tenta di imporre nel dibattito temi concreti, quindi che parlano del paese, non semplici come fa Renzi. Esempio anche a destra che si parla di migranti, c'è uno schieramento che dice accogliamoli tutti ma non si capisce bene come, l'altro dice ma affondiamo i barconi, cioè si tenta di parlare di qualcosa di concreto entrando nel problema fino in fondo, mentre in Italia sembra che il dibattito sia completamente proiettato verso quella che è la politica stessa, non si parla mai di niente che non sia la legge elettorale, il partito con gli animali, quell'altro che fa l'altro partito, poi l'altro per un'altra legge elettorale, alla fine non si parla mai niente di importante. Questa è un po' la colpa secondo me anche di molti giornali, non tutti, cioè di avere questo approccio, per cui anche oggi ci sono le prime 7 pagine sulla legge elettorale e poi per dire il caso di oggi è il caso Ilva che impatta sulle persone. Pagine economiche dentro. Pagine economiche, no, il Sole 24 Ore l'ha messo come apertura, sì. Ma voglio dire, sono scelte che poi alla lunga impongono un'agenda politica, per cui il politico sa che parla di legge elettorale, va a pagina 3 dei giornali, che vabbè sono letti sempre meno dalle persone, e invece il resto va a pagina 15. Comunque, grazie Francesco. Andrei a Roma. Alessandro da Roma. Sì, buongiorno. Eccoci. Sono un osservatore, diciamo, delle vicende nazionali e politiche mediamente attento. Dico questo perché dal mio punto d'osservazione, dai primi commenti, anche dalla vostra trasmissione, almeno nella parte iniziale, in sintesi quello che esce, che è trovato una bozza di riforma elettorale che mi sembra che aspettiamo non so da quanti anni, ricordo se non sbaglio che fu forzata anche una consuetudine nell'elezione del presidente Napolitano, fu rieletto proprio perché doveva consentire, no, facilitare una riforma elettorale. Ci si sta arrivando, la sintesi qual è? Che Renzi vuole il voto anticipato. Ora poi, perché Beh, si dice tutti, Renzi e non il PD? Tutti lo vogliono, anche Berlusconi lo vuole adesso, anche Grillo lo vuole. Appunto, cioè bisogna, se tutti lo vogliono, bisogna prenderne atto, cioè pensare che ogni singolo italiano abbia la voglia, gli strumenti e la possibilità di analizzare la riforma elettorale, e mi sembra un pochettino assurdo, no? Cioè cioè se il mio partito se vengo rappresentato dal mio partito, che in questo caso è il PD e non è Renzi, ritiene opportuno questa riforma elettorale, altrimenti che diventa? Che ogni passaggio deve essere discusso da ogni singolo italiano? Sì. Sul meccanismo di delega fiducioso la invidio molto. Sì, no, la delega a coloro che sono poi quelli che devono decidere, insomma, visto che sono stati eletti. E questo era il sunto del ragionamento di Alessandro. Sempre a Roma, Federico, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, eccomi, sono io? Sì, Federico, è lei. Eccomi. No, io volevo solamente intervenire un attimino. Come dire, ad adiuvandum del ascoltatore che di è una nuova legge elettorale fa. No sì, esatto. Scherzo, l'adiuvandum, dai mi piace, so. L'adiuvandum è mi scusi il latinorum. No, allora il discorso è questo: io sono d'accordo con Marco, caro Giannino, mi rivolgo a Giannino, perché è vero che lei diciamo si mantiene su certe posizioni, però diciamo la sua posizione è sempre abbastanza nettamente contraria a chi? Alle posizioni del PD. No, io parlo del merito, mi dispiace. Quant'altro. No, io mi dispiace. No, io se trovassi chi difende il maggioritario, la vocazione maggioritaria è stata la parabola del PD negli ultimi 20 anni. Io questo ho detto all'inizio. Cioè Beltroni, D'Alema, eccetera, eccetera, sì. Sono nell'evoluzione storica di quel partito. Il maggioritario è stata la maniera con cui il PD... Sì, ma noi siamo arrivati a questo punto perché non certamente per colpa del no al referendum, ma anche perché il referendum è andato in quella maniera. Ah, vabbè, ma questo è un altro paio di maniche, dire che... Siamo arrivati al punto in cui ieri è stato detto gli italiani hanno scelto dire no, sì, hanno scelto alla cosa che, di cui si parlava. Sì, referendaria per il no. Ah, quello l'hanno scelto, ma non c'entra con il proporzionale. Di molti, insomma, e va certo. Bene, si rispetta il voto degli italiani, ci mancherebbe altro. No, ma però, ripeto, il proporzionale o il maggioritario... Non lo hanno scelto gli italiani, lo scelgono i partiti adesso, vedremo, ma lo stanno scegliendo loro, tutto qui, ecco. Sì, ma mi scusi, ma come si fa una legge elettorale altrimenti con un referendum? Lei come propone di farlo? Lo scelgono i partiti. Detto questo, sei grandi partiti, sei tre grandi partiti. Benissimo, sei tre grandi partiti scelgono una legge elettorale in cui si leva la facoltà, perché con le coalizioni maggioritarie questo si fa, al cittadino di indirizzare e scegliere che tipo di coalizioni. Se a voi va bene e tacete, fatelo, il mio compito allora è dire d'accordo, peccato Giannino, perché lei che non va bene. Qui c'è l'ingovernabilità, non ci sono le maggioranze stabili. Sì. Dall'altra parte volete la rappresentatività nella maniera più... Se lei più vuole dire che la colpa d'Italia, se no io siamo d'accordo, non c'è problema. Mi candido. La rappresentatività no, e poi quindi pentapartito, perché avremo un pentapartito fra qualche mese. Torniamo agli anni 90, spero di e no. Finisce tutto lì. Spero però di l'Italicum di Renzi faceva pena, perché comunque secondo... molti c'era un premio di maggioranza esagerato e comunque Macron è stato eletto col 24% dei voti in Francia. L'ascoltatore ci sta dicendo, credo, insomma, no? il PD e Renzi erano per il maggioritario, era per quell'Italicum, eccetera. Su questo però non c'erano i numeri per, e quindi nel momento in cui è arrivata come vogliamo chiamarlo, l'ancora di Berlusconi a dire facciamo sul proporzionale sistema tedesco sbarramento al 5%. Quando Renzi ieri ha detto non è il mio sistema ideale, ma come dire, su questo ci sono i numeri evidentemente, e ci sono in maniera ampia, pare, quando vedremo le proposte, no? Poi elettorali, e le vedremo in Parlamento. C'è sempre Angelo da Roma, cioè sempre Roma, Angelo. Buongiorno, salve. Senta, volevo fare un esame di un minuto su quello che è successo. Allora, c'è stato il referendum. Strategicamente ora per un po' di tempo c'è stato Gentiloni, poi strategicamente Renzi ha deciso, perché è stato Renzi, di andare a elezioni per non assumersi la la responsabilità di andare a fare una manovra alla crime e sangue, no? Quindi chi ha voluto le elezioni, se vedete, alla fine è stato Renzi. C'è un accordo con i 5 Stelle. I 5 Stelle stanno cercando di andare quindi ad elezioni perché l'avevamo detto sin dal primo momento, vogliono cercare di avere ruoli diciamo, aumentare la propria responsabilità all'interno del Parlamento e di poter incidere. Questa è la situazione, cioè non c'è un accordo fra l'accordo fra i 5 Stelle, Berlusconi e Renzi è tutto incidentale. È stato Renzi che ha deciso a tavolino di far fuori, perché i numeri ce l'ha, mi sembra, no, per governare Renzi, cioè Gentiloni. Una mattina Renzi si è alzato e ha deciso che gli italiani devono andare a votare, perché sì, ma c'hai i numeri, dovrebbe... c'hai numeri, non c'hai i numeri per fare la legge elettorale, capisci? No, incidentale, no, l'accordo, però se, se non diciamo si mettessero che... d'accordo i numeri per fare però, una nuova legge elettorale, no, non c'è. Però avrei potuto arrivare a scavallare il 2017. A un certo punto strategicamente ha deciso di andare alle elezioni perché non voleva subire, diciamo, eventuali ripercussioni da un'eventuale e manovra. Quindi nasce questo accordo. No, l'accordo nasce su iniziativa di Renzi, cioè alla fine poi chi ha deciso di andare alle elezioni, chi ha deciso a un certo punto di dire no, andiamo alle elezioni, è stato Renzi. Prima ha fatto fuori tutti i suoi antagonisti interni e poi c'è stata una scelta strategica che è andata avanti, se voi vedete, dal mese di da quando ha perso. A parte, che cioè, non siamo ancora alle elezioni, ma io capisco, ma dove... cioè, non so, Oscar, dove ci porta il discorso? L'accordo non c'è stato. Cioè, ma ho capito, ma dove ci porta il discorso di dire è stato quello che vuole andare alle elezioni? Ci porta a quello che voi avete detto, avete da stamattina parlato di accordo di tre forze che hanno avuto l'interesse a accordarsi. In effetti l'accordo, cioè gli altri hanno dovuto, cioè i 5 Stelle per esempio, hanno dall'inizio detto che volevano andare alle elezioni. Hanno scelto, non è detto perché Toninelli stamani l'ha detto, vuole vedere le carte, però al di là di quello vuole vedere le carte, probabilmente andrà alle elezioni perché lo considerano il mal minore. Questo è l'accordo, cioè non capisco, non può essere... La vostra analisi sul fatto che c'è un accordo non è vera, non è esatta. Prendiamo atto del fatto che ciascuno vuole negare di fronte all'opinione pubblica di fare un accordo con gli altri. Questo, cari ascoltatori, riflettete, visto che dovranno fare governi insieme chi si presenta con un odio atavico etico l'uno verso l'altro, e con questa legge elettorale dovranno poi fare i governi tra loro. Io mi limito a dire questo. Però Oscar, vogliamo chiudere, perché c'è un ascoltatore che da anni ci segue, ci manda messaggi in segreteria, ma è il mitico Anacleto, davvero? Il mitico Pronto. Anacleto che va in pensione. Pronto, Anacleto! Grandissimo! Grande! Grande! Accidenti a te! Come stai? Bene, ci aveva invitato anche alla festa dell'ultimo giorno di lavoro. Vai in pensione, Anacleto. Ma che lavoro hai fatto? Ho fatto il giardiniere qui alle terme di Montecatini. Ma straordinario. Madonna buona, mi dispiace che sia potuto venire. No. Anacleto, fai il bravo con i termini. Sì. Vabbè. Io ti seguo sempre, ora ti seguo un po' meno, vabbè, perché alle 6:30 mattina è un po' dura, capito? Comunque, per davvero, se tu capiti per in qua, mi fa piacere. Porto anche Oscar, andiamo da Anacleto a Montecatini. Sì, vabbè. Quello si è votato anche per sé, le votazioni. Anacleto è impazzito. Vabbè, Anacleto, buona pensione, che dobbiamo fare? Cioè, questo è... Anacleto ce l'ha fatto dopo anni, ma sai che anni ci mandava i messaggi in segreteria? Sì. Vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Dai Oscar, vedremo questa legge elettorale. Io mi sono un po' smaronato di parlare di questa cosa politica. Poi tutti i giorni, come dire, l'agenda ci impongono questa cosa. Ci impongono, nel senso. Domani no, dai. Domani parliamo delle finali NBA. Andiamo, se Richetti però ci Se Richetti, non lo so. Quello è un tema meno divisivo. Richetti, venga da noi che parliamo di questa proposta di vitalizi. Dai, a domani.